GR Sport. Un augurio di buona giornata da Paolo Panceri. Ciclismo in apertura di notiziario sportivo. Come avete sentito nei GR, Riccardo Riccò, il ciclista trovato positivo all'EPO durante l'ultimo Tour de France, ha confessato di essersi dopato. Il corridore modenese ha ammesso davanti alla procura antidoping del CONI di aver assunto la cera, l'EPO di terza generazione. Già la prossima settimana Riccò potrebbe essere deferito e squalificato. La missione di colpa e l'approfondimento di eventuali complicità potrebbero però fargli ottenere uno sconto di pena, da 2 a 1 anno di squalifica. E passiamo all'ampia pagina di calcio. Archiviato il trofeo team, le squadre partecipanti tirano le somme di questo primo importante test estivo. Per l'Inter il bilancio non è positivo. Oltre a essere stata l'unica squadra a non aver segnato contro Juve e Milan, Mourinho ora deve fare i conti anche con infortunio a Materazzi. L'allenatore pensa di tornare sul mercato per trovare un sostituto del difensore. Adesso o May o Beppe Baresi. O un giovane o un vecchio. Un dei due sono le nostre soluzioni. No, veramente è una situazione difficile. Io sto scherzando perché sono amichevoli, ma fra un mese non sono più amichevole, è la Supercoppa, è l'inizio di campionato, è l'inizio della Champions. La situazione non è facile per noi. Anche il presidente Massimo Moratti si è soffermato sull'incidente a Materazzi. Bene, il problema di Materazzi certamente è fastidioso per il fatto che abbiamo presto la partita importante e quindi decideremo in questi giorni se dobbiamo tornare sul mercato o no, dipende, cambiasse, penso che non sia una cosa grave. E anche Materazzi bisogna stabilire cos'è esattamente, poi vedremo. Bene invece il Milan di Ancelotti, che porta a casa il trofeo sia pure ai rigori con la Juventus. Sentiamo l'allenatore. Abbiamo evidenziato qualche problema dietro nella marcatura dentro l'area, però all'inizio della stagione, soprattutto per giocatori che hanno molta potenza addosso come Calase, faticano più degli altri a entrare in forma. Davanti, nonostante le assenze, si sono mosse molto bene. Kakà si muove in maniera fantastica. Da segnalare le 2 reti di Seedorf, che ancora una volta ha regolato i conti con Buffon. Sì. Normalmente ci salutiamo sempre dopo la partita, mi sembrava un po' arrabbiata come questa volta. No, no. 2 bei gol, Buffon rimane tra i più grandi. Da parte sua la Juventus ha evidenziato di essere la squadra più in forma sul piano agonistico. Il tutto va a vantaggio dei prossimi preliminari di Champions. Sentiamo Ranieri. La Juve starà non bene, perché non potremo stare bene quando inizierà il preliminare, però vogliamo passare il turno e dobbiamo essere super concentrati in quel momento. Ieri a Firenze si è tenuto il Memorial Artemio Franchi, che non ha portato bene i padroni di casa. La Fiorentina infatti ha perso 3-1 l'amichevole contro il Barcellona. Di tutto rispetto all'incasso, 768.000 euro. Nella conferenza stampa di presentazione, il presidente Viola Andrea Della Valle e il presidente dell'UEFA Michel Platini hanno commentato le affermazioni di Blatter, presidente della FIFA, che aveva paragonato il calciomercato a una forma di schiavismo moderno. Sentiamo prima Della Valle e poi Platini, che inoltre bacchetta lo stato degli stadi italiani. Ci sono dei contratti, per quello che riguarda noi sono dei contratti e i contratti vanno rispettati. Su quella decisione del presidente di Blatter non sono molto d'accordo, ma questo non è argomento di oggi. Bisogna sempre rispettare i contratti della parte della società come della parte del giocatore. Se per caso c'è qualcosa che si muova, devono mettersi tutti e tre insieme per sapere qual è la migliore soluzione. A parte può darsi San Siro, Roma va a avere la finale della Champions League alla fine dell'anno, vuol dire che è un stadio adatto al calcio, vuol dire che gli stadi non è che sono i migliori d'Europa. Un'auto marcata Roma correrà la Super League Formula, di cui si occuperà il team di Giancarlo Fisichella. La Super League Formula è un campionato formato da scuderie marcate dai migliori club calcistici europei, che prenderà il via a fine agosto in Inghilterra. Giallorosso da sempre, Fisichella commenta così le scelte della sua squadra. Abbiamo preso un ottimo difensore, Garrise, poi c'è Loria, però al momento penso che dovrebbero prendere qualcun altro che aiuti, insomma, l'attacco. Ed è tutto per questa edizione di GR Sport. Ancora un augurio di buona giornata da Paolo Panceri.